Radio 24, alle 6:30 del mattino, la passione non si sente. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Anche dentro il mio partito c'è chi pensa che si possano utilizzare i risultati delle elezioni europee come una sorta di facile ammuina, cioè di far finta che non sia cambiato niente, di si mette lì Renzi, fa la foglia di fico, poi tanto continuiamo noi a governare, e sono cascati male. Sono cascati male, così Renzi, altro che facile ammuina. Ah, che bello spettacolo! Nel Partito Democratico, Ah, che bello spettacolo! Nel dibattitone, ventesimo dibattitone degli ultimi 15 anni sulla riforma del mercato del lavoro. Grande spettacolo di il PD, un partito coeso, unito, tutti attorno al capo, Vabbè, ma lo so che tanto dovrò iniziare da qualcos'altro oggi a parlare, mamma mia. Già li sento sotto. Peter Bescapè mi fa no, non parlare di quello. Ciao Peter, tutto a posto. I gufi, bravo, mandami i gufi. Saluto anche Miriam Lucchetti all'alba della 73esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province, può aprire il Parlamento. Mamma mia, ce li sento questi due. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Già li sento. Forza, gente, accorrete al Parlamento. Dai su, Mario Di Nolfi, spara su, dai. No, non lo so, io ho visto via Twitter che non vedevi la partita, non l'ho vista neanche io. Com'è finita? Ho azzeccato il pronostico, 4-0-5, com'era? Ha vinto il Milan? Ha vinto? Ce l'ha fatta? Questo è l'anno in cui non ce la facciamo, che abbiamo Allegri, quindi dai, non ce la possiamo fare. 4, schema 4, Allegri, 0. dai, maledetto. Te lo faccio dire da un altro gobbo maledetto, Federico Novella, buongiorno. Buongiorno Alessandro, ma insomma io mi meraviglio di te perché tu sai che io sono una persona assolutamente sportiva, assolutamente sobria, che non specula, come dire, sulle disgrazie altrui, quindi non vedo perché dovrei... Vabbè, dai, gliela mettiamo a Di Nolfi. Non si sente, com'è? È l'inno della Juve, si sente? Lo senti? A Di Nolfi, l'altra volta l'hai cantato, Carlito, sì. Deve! Mamma mia, ragazzi. Questa canzone orrenda, l'inno della Juve, sì. Ma il bianco che abbraccia il nero, ma mamma mia. No, comunque, siccome dobbiamo partire dal calcio, il mio idolo indiscusso già da calciatore era Ringhio Gattuso. Ma l'avete sentito che ha combinato Ringhio Gattuso? L'inglese di Gattuso è il modello Italia. Italia. Gattuso. La fuga dei cervelli all'estero. No, bellissimo. Ma non toccare Ringhio Gattuso, guarda che ti vengo a prendere. Allora, Ringhio Gattuso, che oggi allena in Grecia, Federico, tu l'hai sentito? Sì, ha fatto. Allena in Grecia e ha fatto uno di quegli sfoghi alla Trapattoni, Strunz, ve lo ricordate, no? E se l'è presa. Vai, fallo partire, tanto è lungo, si capisce. No. Un po' in inglese. Ma è meno difficult. Senti. C'è la tempo con l'est scolino. Meno. La traduzione. Ma mi work 12 hours, 15 hours a day in the back. Sometimes winner, sometimes loss, ma my job and my players... is not touch. Ma mio mai job, ma mai job. Sui giornali. E questo senti, già vissuto anni. Ha vissuto in Scozia. Ma sentilo, un grandissimo I no permit nothing. 100% Malakia. Another thing, I put two players out because No respect the rules. Oh, ok. No respect the rules, ma un grandissimo. A me risulta. Vaglielo a dire in faccia, Dinolfi. Vaglielo a dire in faccia che non sapete l'inglese. Vai da ringhio a dirglielo. La fotografia del disastro italico. No, sì, vaglielo a dire in faccia. A me risulta che abbia detto: sono nettamente favorevole alla riforma dell'articolo 18. Infatti. Senti, Rino, senti, ringhio. One people ne give me present. I don't give present for the players. E stop about. Da Corigliano Calabro. Speak for this guy and other guy. Me no finish the school. I no have paper for teacher. I have a diploma for manager. I have a diploma. Sometimes maybe shit. But the rules for me is very important. Every day malachia. For what? For what? Grande. I have a diploma. Il diploma. Il diploma. Ma è un genio. I have a diploma. No finish the school. L'avevamo sospettato. Che dobbiamo fare? Basta. Io gli darei ragione. Se lo dice con quel tono, io gli darei ragione. Ma infatti, vallo a contraddire. Mario, esatto. È facile qui al telefono, Diglielo a ringhio, infatti. Giuro che me la cavo anche faccia a faccia, giuro, Giuro che me la cavo. Vabbè, comunque, insomma, abbiamo iniziato col calcio, basta parlare di calcio, ok? Mi pare giusto. Allora, vogliamo parlare di questa storia? Io non so se sono pronto a fare il dibattitore, però vi faccio un quiz anche a tutti gli ascoltatori e a voi. Chi ha detto coi sindacati non si può lavorare? Matteo Renzi, Riccardo Muti o tutti e due? Perché questa, la novità è che Riccardo Muti ha abbandonato l'Opera di Roma perché con gli orchestrali non si può lavorare. Vabbè, battute a parte, Mario Dinolfi, il Partito Democratico sta dando un gran bello spettacolo, o no? Carlito Tevez! Vabbè, no, ne facciamo i seri, dopo questo sabato di trionfo. Che devo un gran bello spettacolo, ragazzi. È finito il Partito Democratico, esiste Matteo Renzi, ancora imperatore d'Italia, eletto il 25 maggio del 2014 col 41%. Ma voi pensate che una minoranza di persone che ha la testa rivolta a 100 anni fa si possa mettere davvero a mettere in difficoltà Renzi in qualche modo? Per ottenere cosa, secondo te? Se Renzi va dritto, il ricatto qual è? Che dice la minoranza? Andiamo alle elezioni, cosa può fare? C'è la direzione nazionale, voterà, la minoranza sarà schiacciata perché il rapporto numerico è clamoroso e semplicemente si adeguerà perché deve salvare le poltrone in Parlamento, altrimenti quelli lì in Parlamento non c'entrano più. Quindi fa bene a dire Matteo Renzi col tono un po' da bullo, ma sono cascati male, perché così è, il dibattito non è come quello di una volta, che era il dibattito paralizzante. Questo è il dibattito così, dove loro per affermare una propria identità provano a dire due cose, ma non accadrà semplicemente nulla, perché non hanno alcun potere. Ma di ho capito, però è un metodo di governare, quello è di dire... È un perfetto metodo, perché se ti infili dentro a questo casino e fai il vecchio Partito Democratico che se si avvita sulla sua discussione interna, non potrai combinare mai nulla. Già non riesci a combinare nulla così. Figurati se ti infili nella questione, nel dibattito interno. Non so, io vorrei capire, Federico Novella fa bene, Mario Dinolfi dice è un metodo di governare, basta questo, appunto, il pensare che siamo qui a fare ammuina, no? Fare le cose, tanto nulla cambia. Fa bene, no, Matteo Renzi, oppure rischia di spaccare il suo stesso partito? Non è che fa bene, ce l'ha nel sangue, cioè non è che puoi andare altrimenti, cioè stiamo vivendo questo periodo che non è ancora Terza Repubblica, ma non è più Seconda, e funziona così. Ha ragione Mario, però mi fa anche un po' pena sentire Bersani che dice però mi trattate peggio di Dove sei andato? Stai facendo benzina? Sei andato via un attimo? No, c'era la sbarra di Mediaset. La famosa sbarra di Mediaset. Cioè. Mi fa anche un po' pena sentire Bersani che dice: oh ragazzi, però almeno trattatemi un po' meglio di Berlusconi. Esatto, no? Bersani ha detto: mi tratta meglio, cioè sarò vecchio, ma Berlusconi è vecchio come Verdini e lo tratta meglio. No, ma siamo a sti livelli. Cioè. Volano stracci, caro Adinolfi, volano stracci. Questo stracci verbali, qualche lancetto di cerbottana di una minoranza che deve affermare la sua esistenza in vita, che purtroppo per lei percepisce di non avere nessuna arma reale per poter condizionare questo passaggio, e Renzi che li guarda dall'alto e dice: siete cascati male. Mi sembra veramente una dialettica. Sì, però io dico: ma questo funzionare noi per riflesso condizionato, ma non c'è una reale possibilità che quella cosa incida, capisci che lo voglio dire? Vabbè, non inciderà, però insomma, se poi fa un decreto sulla riforma del lavoro e i numeri non ci sono, che deve fare? Si deve andare a votare. I numeri non ci sono? No, chiedo. Ma secondo te quel Parlamento, quel Parlamento dove l'80% rischia di non tornarci dentro? Si va a votare. Ho capito, ma allora che fanno? Votano tutto, cioè gli voteranno tutto, gli voteranno tutto su questo. Io spero solo che Renzi partorisca una serie di riforme sensate, perché quel Parlamento lì gli vota tutto. Gli vota qualsiasi cosa, fa un po' di recita e poi gli vota tutto. Capito, capito Federico? La punizione di se stesso con è l'imperatore. No, ma magari lo facesse il decreto, perché poi alla fine di riforme è andata in porto, io ancora le devo vedere. Poi il potere vero di Renzi si giudicherà sulla capacità di farle davvero, perché ora tanti annunci per adesso. Però no, ma poi si assiste a questo cortocircuito. Io l'ho capita così: la riforma del lavoro si vuol togliere la reintegra sull'articolo 18 per quelli che entrano nel mercato del lavoro, mentre non si vuole toccare per tutti quelli che ce l'hanno l'articolo 18, me compreso, Federico Novella, Adinolfi perché nessuno lo vuole, quindi nessuno lo assumerebbe mai a tempo indeterminato. Comunque, insomma, non si tocca l'articolo 18 per chi già è protetto da questo. E allora sento delle dichiarazioni a dire, non so, ieri Angeletti, oggi Bonanni: se si vuole toccare l'articolo 18 per chi ne è tutelato diremo di no, ma non l'ho mai sentita questa, cioè, e si innesca questo dibattito in cui ognuno si parla sopra, non ci si ascolta, uno dice una cosa e gli hanno detto hai detto un'altra cosa e via. Mario, tu sei pronto? È almeno verissima questo? Questa cosa, si fa il dibattito su cose che non ci sono, sì, esatto. Si mettono dentro anche cose che uno non ha detto e via. Dibattito sulle pensioni, non si tocchi un euro ai pensionati e lo dicono tutte e due non toccheremo, non toccateli, non lo toccheremo, non toccate, è previsto, però questo un pochino di responsabilità anche il giornalismo italiano nei giornali trovi questo dibattito costruito su cose che non esistono. Però dopo il traffico vi voglio far sentire una cosa, perché siamo anche nel paese, oltre alla segreteria telefonica tanto amata da Adinolfi, siamo nel paese in cui non si riesce neanche a capire se Matteo Renzi, che ha detto entro il 21 settembre pagherò i debiti alle imprese, chi ha avuto ragione? Anche qui ognuno dice ci sono i soldi, no non ci sono i soldi, ci sono i soldi, non ci sono i soldi. Shit, sì. Malachia. Is Malachia, 100% Malachia. 24 mattino. Non si può mai sapere che cosa si deve volere, perché si vive una volta soltanto. E non si può né confrontarla con le proprie vite precedenti, né correggerla nelle vite future. Non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore, perché non esiste alcun termine di paragone. L'uomo vive ogni cosa subito. La più grande riforma che il governo deve fare è la licenziabilità di tutti i dipendenti statali. Ho votato per tanti anni la sinistra sperando che se ne andasse Berlusconi, che non ci fosse più un ministro del lavoro come Sacconi, ed ecco che mi ritrovo con Renzi di sinistra. Che fa la riforma del lavoro per far gongolare Sacconi, che sta lì e gli detta legge. Che barzelletta l'Italia. Grazie alla Fornero sono 3 anni che i pensionati non vengono più corrisposti quei pochi euro di adeguamento Istat all'aumento del costo della vita. Qualcuno dovrebbe vergognarsi, o no? So Adinolfi, so er compagno, e de certo non me lagno, faccio er grano al tavolo verde, no con un pubblico de merde che se sveglia la mattina pa ascoltare la trasmissioncina. Te saluto popolino, come disse quel grillino de Marchese da Strapazzo, io so io e voi non siete un cazzo. Marione, questa ti è piaciuta. Questa è bellissima. Adesso musicarla. Questa li mettevamo una base, dobbiamo mettergli una base sotto. Una chitarra. Sì, chitarra. Due violini. Creatività allo stato puro, insomma. Vabbè. Allora, questo è un paese in cui non si capiscono le cose. Per esempio, Renzi da Bruno Vespa, quando era a Porta a Porta, comunque aveva promesso entro il 21 settembre, cioè ieri, San Matteo, pagheremo tutti i debiti pregressi alla pubblica amministrazione e alle imprese. Lei, se vuole, noi diamo la fine dell'estate, che quindi, se non vado errato, è il 21 settembre, il giorno di San Matteo. Se lei se noi abbiamo pagato e sbloccato i debiti della pubblica amministrazione, lei decida dove fare il pellegrinaggio, decida dove vuole farlo. Guardi, in suo omaggio, un santuario vicino Firenze. Monte Senario. Eccolo lì. Adesso, chi va a Monte Senario? Adinolfi, non si sa. Ha detto pagato e sbloccato in quella frase, cosa hai visto? Che c'è questa. Infatti. 26 miliardi sono stati pagati, il resto è stato sbloccato, quindi io sbloccato. Penso che in termini tecnici debba andarci bene. Deve andarci adesso, vabbè, subito i grillini ameranno Adinolfi per questa dichiarazione, che diranno servo, Zerbino di Renzi. Io dirò loro che il pubblico è quello che è. No. Federico Novella, chi ha vinto in questo? Perché c'è chi dice... C'era la clausola in piccolo, come dite voi. C'era l'asterisco. C'era l'asterisco. Ma se Confindustria, Confartigianato, CGA dicono che mancano dai 20 ai 35 miliardi, adesso mancano. Magari sono stati sbloccati, ma questi poveri imprenditori in tasca non ce l'hanno i soldi. Nel dubbio, sai chi andrà tra Renzi e Vespa? Nessuno. Penso che ci andrà Inzaghi. Mamma mia, cosa c'entra Inzaghi? Ma lo vuoi lasciare stare che ci ha ridonato il gusto di rinnamorarsi del Milan a noi milanisti? Inzaghi? Noi abbiamo avuto molto Allegri. Gusto a vedere la partita sabato sera, però vabbè, lasciamo stare. Però non disturbiamo Milan, perché è giusto parlare di questa cosa seria che ha detto di Vespa e di Renzi. E ti vorrei ricordare Carlitos Deve! Certo che anch'io a chiamare due gobbi maledetti ho fatto l'atto d'arroganza, ho detto facciamo il miracolo, li battiamo il lunedì, li bastono, e invece è già finito, per inciso vincerà la Roma, si gioca la finale quest'anno, quest'anno sono più romanista di mia moglie, che è romanista già, e quindi tutti per la Roma quest'anno. Ma vi voglio far sentire anche Berlusconi, che è tornato con le sue battute. Con l'età cala tutto, Berlusconi. Con l'età la memoria cala, la vista cala, l'udito cala, cala qualche altra cosa, ma non si può dire. No, intendevo i pantaloni. I pantaloni. Mi sono però premunito. Vabbè, ho messo le bretelle. Però Berlusconi ha detto questa frase, al di là delle battute, una frase che vorrei farvi sentire, vorrei una vostra interpretazione. Una frase politicamente, secondo me, significativa. Sentite Berlusconi sulla bandiera a mezz'asta. Oggi c'è in Italia una bandiera che sventola forte nel vento. E questa bandiera, dobbiamo riconoscerlo, si chiama Matteo Renzi. Ce n'è un'altra, come si chiama? A mezz'asta, che si chiama ancora Silvio Berlusconi. Sarebbe bello avere in campo un esercito di azzurri che avesse una bandiera, un vecchietto e tutti gli altri giovani. Mario, a me ha colpito questa frase di Berlusconi. C'è stato un attimo di stupore nel pubblico. C'è una bandiera che sventola alta e Matteo Renzi, no? Dai, è una fotografia abbastanza collimante al reale. Ho capito, ma da Berlusconi non c'è di solito, no? Di solito combattivo, di solito un po'. Ma Berlusconi si è arreso da un anno. È chiaro quello che fa Berlusconi. Berlusconi tenta di condizionare quello che c'è con quello che può e si para un po' dai colpi che devono arrivare. Tra l'altro, qualcosa di buono gli è arrivato sia dalla assoluzione che dalla Europa, che gli dà un po' di retta sui suoi ricorsi. Insomma, non può fare il protagonista del centravanti fondamentale. Cioè, l'era berlusconiana, se qualcuno pensa che ci sarà un ritorno di Berlusconi Napoleone come a Waterloo, sarà solo per un'ulteriore sconfitta, quindi non credo ci sia

Lei sa che sua moglie aveva degli amanti, è impossibile. E il PM, e lei? A noi risulta qualche scappatella con la signora, ovviamente non scritta, del ristorante, evitano il comune. E poi abbiamo sul suo telefonino un elenco di nomi di donne. Beh, certo, perché questo è una grave accusa, avere un elenco di nomi di donne sul telefonino. E lui che dice, guardate che le nomi di donne sono fasulli, erano solo un modo per ricontarmi il codice del bancomat. Cioè, pubblicato questo, facevamo sesso 2 o 3 volte a settimana con mia moglie. Le scappatelle, gli amanti. Così. Adesso tutta Italia non sa se è l'assassino di Chiara Gambirasio, ma sa queste belle cose. Va bene, e poi sempre per quel che riguarda la cronaca, registro che cosa? Quello che racconta un'autista donna, Elisa De Bianchi dell'ATAC di Roma, con l'aggressione che le hanno fatto 30 persone, apri o ti ammazziamo, aggredita sul suo autobus, racconta il Corriere della Sera con Rinaldo Frignani tutte le vicissitudini. Questi pazzi mi gridavano apri o t'ammazziamo, erano sulla linea 42, non so perché erano arrabbiati, alcuni hanno lanciato bottiglie di birra, hanno fatto implodere un finestrino, erano persone, tutti immigrati, fa sapere, probabilmente di un centro di accoglienza lì vicino, volevano ammazzarmi probabilmente se fossero riusciti a salire sull'autobus o ovviamente teme, rischiavano se salivano anche di violentarmi. E questo è il racconto di questa donna che dice tutti ci fotografano quando usiamo il telefonino alla guida, però mentre mi aggredivano in 40 la gente si fermava in macchina e poi tirava dritto e nessuno che mi ha aiutata. Va bene, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina del Corriere della Sera con Elena Tebano con questa domanda. Dibattitone. È giusto mettere in rete le foto dei figli? Una pagina sul Corriere della Sera. Segue dibattito. Basta tasse. 24 mattino. Sono in questo momento le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, la scorsa settimana, se vi ricordate, venerdì abbiamo parlato di vitalizi soprattutto gli ex consiglieri regionali. Abbiamo scoperto che paghiamo in Italia 170 milioni di euro tra tutte le regioni. Questa è la cifra per mantenere coloro che sono pensionati della politica, diciamo ex consiglieri regionali. Sapete che purtroppo però ci sono anche persone che sono state in carica 2 anni, persone che vanno in pensione dalla politica a 50 anni. Per carità, tutto questo non sarà più possibile per il futuro, sono state cambiate le regole, ma abbiamo sul groppone, tanto per usare un'espressione poco educata, tutte delle regole del passato che portano poi a queste cifre di spesa per le regioni. Perché non si può intervenire anche sulle pensioni o sui vitalizi, meglio, pregressi, spesso si è detto i diritti acquisiti. In realtà abbiamo scoperto che volendo si può fare. Ci spiega come il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti di Scelta Civica. Buongiorno sottosegretario e grazie per essere qui con noi. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Allora, si può fare. Lei ha proposto ha fatto una proposta di legge di rango costituzionale proprio per agire sui cosiddetti diritti acquisiti. Si possono toccare questi vitalizi che vengono erogati? Beh, certamente, anche la Costituzione è nelle disponibilità dei cittadini, ovviamente con le modalità rafforzate previste proprio perché le modifiche costituzionali siano adeguatamente meditate. Con una legge di rango costituzionale si può evidentemente apportare delle modifiche che in questo caso consentano di evitare che poi eventuali interventi pensati anche per il pregresso, per il passato e non solo per il futuro, non cadano poi sotto una censura appunto di incostituzionalità. Cosa il classico ricorso, è il classico ricorso alla Corte Costituzionale. Che poi... Ma se lo decidi con un provvedimento di rango costituzionale non può più essere incostituzionale. È una scelta che viene fatta, una scelta politica fortissima, ma che io credo che in questa fase debba essere fatta. Allora, lei ha presentato questa proposta il 21 gennaio del 2014. In sostanza la proposta prevede questo, poi lei ce la specifica meglio. Diamo il vitalizio, perché non bisogna essere populisti, demagogici, è giusto dare un vitalizio, ma a chi ha fatto o 10 anni consecutivamente o 15 anni non consecutivi, questo anche per il passato. Questo è il senso della sua proposta, no, sottosegretario? Esattamente, esattamente, anche per il passato, e quindi in questo caso chi si troverebbe oggi a percepire dei vitalizi in assenza delle condizioni che andiamo a fissare, ad esempio lei faceva, ricordava, c'è chi ha fatto solo 2 anni, 1 anno, e in questo caso con l'entrata in vigore della proposta vedrebbe sospendersi l'erogazione del vitalizio, chi viceversa avrebbe i requisiti ancora continuerebbe ad averlo, probabilmente comunque decurtato, perché si terrebbe anche conto delle nuove modalità di calcolo, legandosi anche ad aspetti di carattere contributivo. Ecco, però sottosegretario, lei l'ha messa questa proposta di legge, vale sia per i consigli regionali e anche per il Parlamento. Sappiamo che ci sono parlamentari che hanno fatto 2 giorni, 1 giorno, perché le vecchie regole consentivano di mettere piede una volta in Parlamento per essere considerato beneficiario di un vitalizio. Cioè, lei si rende conto che non sarà mai approvata una roba del genere da parlamentare? Guardi, calma e gesso, vediamo. Intanto l'importante è che questa cosa arrivi in aula, e grazie al mio partito, grazie a Scelta Civica che ne ha chiesto formalmente la calendarizzazione, volenti o nolenti in aula la dovranno portare. E poi là ci troveremo, è chiaro che questo non fa parte di un programma di governo, questa è un'iniziativa, io l'ho presentata, per come ricordava, a gennaio, quando ancora ero non era sottosegretario della commissione, certo. Esatto, come sottosegretario non sarebbe neanche serio presentare un disegno di legge. Ovviamente io dall'interno del governo la sosterrò, come tutta la delegazione Scelta Civica, la sosterremo a spada tratta, però è una questione parlamentare, nell'istante comunque in cui c'è un partito che costringerà a portarla in aula, poi vediamo, probabilmente ci saranno assetti, in questo caso come logico che sia, che vanno ben oltre le logiche di maggioranza e minoranza. Voglio proprio vedere chi ha il coraggio, non di dire magari va bene, miglioriamo questo punto, spostiamo i 10 in 8, cambiamo verga, ma voglio vedere chi avrà il coraggio di rifiutare in toto un principio del genere, posto che, come ricordava anche lei, i costi per questi vitalizi passati stanno diventando pazzeschi, sì. Posto che anche nel bilancio della Camera e del Senato ormai il costo degli ex parlamentari è praticamente superiore a quello dei parlamentari in carica, è posto chiaro. Che se andiamo avanti così, con un passato che costa più del presente, non daremo nessun futuro al nostro Paese. Sì, tra l'altro lei ha proprio, nel presentare questa proposta di legge, come detto di rango costituzionale, ha fatto notare come quei diritti acquisiti che tutti brandiscono, come dire no, non si può toccare il diritto acquisito, lei dice ma come, il diritto acquisito si può toccare benissimo, ecco, se si fa una proposta di rango costituzionale, quindi anche questo argomento va a cadere, no? Ma in questo argomento va a cadere nell'istante in cui c'è la determinazione politica, che deve essere più elevata, di farlo cadere, anche perché vede, se la logica del diritto acquisito resta come logica intangibile, allora capisce bene che questa non è più una comunità nazionale, ma è una decadente caserma in cui chi arriva prima meglio alloggia, chi c'è, gli altri si fregano, si riforma sempre solo per il futuro, si tirano linee e chi è già dentro al recinto è salvo, chi arriva dopo si fa carico di tutto quello che è il costo anche del passato e diventa una zavorra insostenibile. In una comunità nazionale gli unici diritti realmente acquisiti sono i diritti che possono continuare ad essere acquisiti anche dalle nuove generazioni. È ovvio che nelle rimodulazioni bisogna sempre tener conto anche di una tutela del legittimo affidamento, il che vuol dire mai togliere il 100%, ci mancherebbe, però una mano nell'istante in cui togli il 100% a chi arriva dopo, una piccola rinuncia a chi intanto aveva tutto, è proprio frutto della volontà di mantenere una coesione nazionale, generazionale, categoriale, che in questi anni viceversa con questa scusa dei diritti acquisiti stiamo perdendo. Certo, no, ma anche perché i cittadini, quando si parla di questi diritti acquisiti, sa, ci ascoltano moltissimi che sono, che ne so, tra gli esodati, coloro che le riforme le hanno vissute. Ma nessuno pensa di il diritto, anche la logica del diritto acquisito, vede, va un attimo declinata, perché il diritto acquisito inteso come diritto a una comunque una condizione economica dignitosa rispetto appunto al tenore di vita, rispetto al costo della vita, quello è proprio diritto acquisito intrinseco, e dubito che ci sarà mai qualcuno che faccia un'iniziativa legislativa volta a intaccarlo. Se però diritto acquisito diventa tutto e non c'è invece un minimo di distinzione tra privilegio acquisito e diritto acquisito, allora siamo completamente fuori strada, e qui mi pare che siamo nel settore però, del privilegio. Però, sottosegretario, dica la verità, come hanno accolto questa sua... Perché sa, le proposte di legge si possono anche fare, si possono poi, come dire, lo sa meglio di me con le dinamiche parlamentari, insabbiare, cioè dire sì sì fai la proposta di legge, tanto rimane lì, giace nei cassetti. Guardi, cassetti, come dice lei, ha perfettamente ragione, i cassetti di Montecitorio e anche di Palazzo Madama sono pieni zeppi di disegni di legge più o meno validi che non vedranno mai un dibattito parlamentare. Però quando c'è un partito che viceversa compattamente lo impone, e le ho detto che è il caso presente perché Scelta Civica ha già fatto questa scelta, quantomeno al dibattito parlamentare in aula si deve arrivare. E ribadisco, vorrò vedere in quella situazione chi sarà disposto a metterci la faccia davanti ai cittadini, non per dire miglioriamolo, cambiamo una virgola, no, per affossarlo, per dire, no, lo rifiutiamo. Ma guardi, siamo pronti anche noi a vedere se, cioè, vogliamo sperare di arrivare appunto al momento in cui potremo vedere questo dibattito e poi i cittadini. Grazie a Scelta Civica questo momento lo vivremo. Quando succederà secondo lei? Cioè, quando sarà incardinato questo? Ci sono prima ovviamente i lavori in commissione. Io credo che si possa oscillare tra i 2 e i 3 mesi per arrivare addirittura, come dire, allo showdown in aula. Magari paradossalmente anche qualcosa di più se il lavoro in commissione, anziché essere un lavoro difensivo di rigetto, diventa un lavoro migliorativo, migliorativo per arrivare in aula, non appunto a respingerlo ma a votarlo. Quindi... Lei ha già fatto anche un calcolo, cioè se si riparametrasse tutto concedendo il vitalizio solo a chi ha 10 anni di legislatura consecutiva o 15 non consecutiva, diciamo, se rimanessero questi parametri, avete già un'idea di calcolo di quello che si potrebbe recuperare rispetto a quello che viene erogato oggi? Diciamo, tra i soggetti che vedrebbero venir meno il diritto alla percezione e quelli che viceversa la manterrebbero però con una rimodulazione del dovuto, diciamo che siamo tra il 50 e il 60% di abbattimento dei costi attuali. Insomma, non sarebbe male, diciamo, ci accontenteremmo anche del 50, visto la stima minore. Sottosegretario, che dire, noi seguiremo, ci tenga aggiornati su questa vicenda, ci tenga informati, insomma, il prossimo passo è spingere perché venga almeno incardinato il dibattito. L'unica cosa che mi consente, anche ancora ci terrei a dire, se sì. Siamo aggiornati, è che comunque, guardate, queste iniziative non sono la chiave di volta di un programma politico, non rilanciano l'Italia, non sono molto populismo. No, certo. Sono però la cifra dell'azione politica di un movimento come il nostro, come Scelta Civica, sono le riforme sul lavoro, il piano per l'export italiano, quelle sono le cose importanti che fa ripartire il paese. Però il vantaggio di un movimento politico come il nostro è che è sufficientemente libero rispetto ad altri, nel senso che non ha tanti vitalizzati, oppure quando si parla delle partecipate non ha tante persone messe nei consigli di amministrazione, che oltre a fare le cose importanti si permette con serenità di fare anche queste cose che sono più di segnale ma sono altrettanto. Ma quando, come abbiamo detto tante volte, bando ai qualunquismi, non è che si risolvono gli 800 miliardi di spesa pubblica tagliando i vitalizi dei parlamentari, ma è un segnale anche di equità sociale, di giustizia. Non vedo perché ci siano persone che devono prendere la pensione perché sono stati 2 giorni in Parlamento, quando questo agli italiani normali non succede. Intanto, sottosegretario, la ringrazio, alla prossima, ovviamente ci terremo aggiornati. Enrico Zanetti, voglio ricordare, sottosegretario all'economia per Scelta Civica, ha fatto questa proposta di legge di rango costituzionale quando non era sottosegretario ma semplice parlamentare. Vi terremo aggiornati, cari ascoltatori, vedete che si può fare, ora manca e ci vuole la volontà politica di farlo in Parlamento. Intanto, dopo la pubblicità parleremo di che cosa? Parleremo, sì, se volete, di abusivismo edilizio, ma meglio parleremo di quale è il significato dello Stato, uno Stato vero. Lo faremo raccontando 2 storie, quella di un imprenditore edile in Calabria, che è anche un testimone di giustizia, attenzione, ho detto testimone di giustizia, non un collaboratore, un testimone, cioè uno che ha denunciato i propri estorsori, e poi racconteremo la storia del sindaco di Forio, che sarà nostro ospite, che ha avuto un problema per una parte dell'albergo da lui posseduto, che è stata requisita perché è giudicata abusivo. Che Stato vogliamo? 24 mattino. Siamo qui, sono le 8:36 minuti. L'Italia, secondo me, si capisce se la si descrive anche da quelle che appaiono piccole storie, anche se piccole non sono, a mio parere. Vogliamo parlare di lotta all'abusivismo edilizio, diciamo in generale, ma soprattutto vogliamo parlare di che cosa significa la parola Stato, e lo facciamo intanto attraverso la storia di un imprenditore che vi voglio presentare. È un imprenditore edile di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, siamo in Calabria, e si chiama Gaetano Saffiotti. Buongiorno Saffiotti e benvenuto. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Lei vive dal 2002, mi corregga se sbaglio, sotto scorta in un'azienda che è descritta, ce la descrive anche noi, come un fortino, è vero così? Siamo un avamposto in terra di 'ndrangheta. Perché lei decise di denunciare una serie di estorsori che ha mandato a processo, questo in Calabria. Io ieri tra l'altro sono reduce, non so se lei l'ha visto il film Anime Nere, l'ho visto ieri, è un film straordinario. Che consiglio, film di Federico Munzi, che consiglio a tutti di andare a vedere, uno spaccato sull'andrangheta davvero impressionante. Quante persone lei ha mandato a processo con le sue denunce? Ma la prima volta con l'operazione dell'Onore d'Achille 48, poi nel susseguirsi degli anni ci sono state altre operazioni, comunque non le sto a contare. Non le sta a contare? Sarebbe stato un centinaio, una cosa in altro. Succede che a un certo punto a Rosarno lo Stato requisisce qualche anno fa una villa, un edificio abusivo, la villa, mica una villa qualunque, di chi era questa villa, Saffiotti? Dicono che appartenga a Clan Pesce, c'è cioè un congiunto di questa famiglia che ormai da tanti anni ha il dominio sul territorio. Questo edificio va abbattuto, il sindaco di Rosarno va avanti con le pratiche, non si intimorisce, arriva anche, credo, una raffica di Kalashnikov sul palazzo comunale, solo che c'è un problema, che i bandi che vengono fatti per trovare un'azienda che abbatta, che demolisca questo edificio, vanno tutti deserti, è così Saffiotti? Così hanno detto, io non ero neanche a conoscenza dei bandi, se no ci avrei partecipato. Quindi poi sono stato contattato dal sindaco su pressione del prefetto, presumo, affinché ci fosse la disponibilità ad eseguire questo lavoro, e chiaramente ho dato subito la mia disponibilità. E lei è andato ad abbattere questa villa che racconta nei giornali, così nessuno voleva abbattere. Perché lei l'ha fatto? Ma perché non è che stiamo qua per tenere le bambole, la scelta che io feci tanti anni fa era per dimostrare che si può vivere e continuare a lavorare nella nostra terra, e per dare un esempio affinché ci possa essere emulazione da parte degli altri, quindi poter dare una mano allo Stato da parte della società civile, da parte di noi cittadini, credo che sia il minimo, perché questa è una guerra. La lotta alla mafia non si vince con la sola repressione, né bastano i battitori liberi, ci vuole un gioco di squadra. Questo però non esime i singoli componenti, proprio perché una squadra è composta da tali figure, i quali se si comportano, se applicano e se eseguono le strategie nei loro propositi in modo univoco, in sinergia, consentono alla squadra di vincere. Questo certamente, però che clima c'era? Ce lo vuole raccontare? Cioè, una demolizione di una villa che appartiene, secondo i magistrati, a un boss dell'Andrangheta, si fa in un clima normale, in una situazione insomma? Chiaramente non è un abbattimento di una casa normale, per quanto anche una casa di un singolo cittadino che anche se fosse incensurato chiaramente comporta delle reazioni da parte dei proprietari, nessuno si può far distruggere un bene, ma nel caso specifico ovviamente aveva una valenza diversa, perché come subire uno schiaffo, insomma, ecco, nel territorio. Ma è vero che lei dice da quando ho denunciato in Calabria non posso più lavorare di fatto? Ricordiamo, lei è un testimone di giustizia, quindi... Sono gli scenari che si aprono quando si denuncia, l'avevo messo in conto, però credo che solo rimanendo si possa dare una svolta, cioè se non lo facciamo noi calabresi, insomma, come riusciamo a uscirne fuori da questa storia? Certo, ma lei dove lavora? So che lavora per esempio a Dubai, è vero? Sì, la lavoro all'estero perché purtroppo in Italia non c'è spazio, perché l'andrangheta non pensi sia solo in Calabria, ormai le mafie hanno radici da tutte le parti. Ho lavorato anche al nord, in Toscana, Emilia, Lombardia, anche nel nord Europa, e in tutti questi posti purtroppo ho avuto attentati, ho avuto minacce, ho avuto una serie di cose che... Cioè, ma come funziona? Mi faccia capire, non si può fare il proprio lavoro, in questo caso l'impresa edile, lei dice, senza, nelle grandi commesse, senza che ci sia qualcuno da pagare? Ma non solo nelle grandi commesse, neanche nelle piccole. Di recente c'è stata anche un'operazione proprio perché un privato che coraggiosamente si è rivolto a noi per eseguire un lavoro è stato minacciato e ha dovuto ripiegare su un'impresa mafiosa, perché la 'ndrangheta deve dare un messaggio importante, che chi denuncia fa la scelta sbagliata e diventa cosiddetto infame, una persona che deve essere emarginata, che non è degna di stare su questa terra, su questo territorio, e quindi come minimo dovrebbe andarsene. Mi può raccontare la sua giornata? Ce la può raccontare la sua giornata, voglio dire? Lei cosa vuol dire, senza ovviamente rivelare nulla che non ci può rivelare, ma vivere sotto scorta cosa significa? Quante persone la seguono? Ma sono diverse persone che si alternano durante il giorno, ovviamente per i turni. La mia vita in Calabria, nel territorio ovviamente, è ristretta al mio bunker, cioè nel mio fortino, come lei l'ha definito. Ridotta in 20 passi, che sono esattamente la distanza che percorro dalla casa, che è dentro il fortino, all'ufficio. E come fa a lavorare, andare in giro? Si dovrà muovere? Cioè... Appunto, queste sono le difficoltà, perché oltretutto andare in giro con la scorta mi crea un po' di imbarazzo, sinceramente, e metto anche in imbarazzo la gente che dovesse contattare. Però si cerca in qualche modo, insomma. Restando in tutto questo tempo, tante cose sono cambiate, la gente prima non neanche ti salutava, adesso comincia ad avvicinarsi e comincia ad avere più confidenza, ecco, ha cominciato ad aiutarmi a battere questo muro dell'omertà. Cioè, lei può passeggiare per il suo paese tranquillamente, la gente comincia a salutarla, perché prima non la salutavano neanche. Eh sì, ma più che altro non perché non condividessero la scelta, ma perché non essere visti da... Sì, certo, perché salutarla vorrebbe dire stare dalla sua parte, secondo un certo tipo di logica, no? Esattamente, sì, si potrebbe passeggiare, ma passeggiare con la scorta non è che sia il massimo. Ho capito, ma lei che fa? Una vita blindata, cioè non può... Non è può, una scelta, non può andare a bere il caffè nel bar di casa. No, anzi, che perché noi testimoni di giustizia, cioè, fra l'altro, dove ho messo in località protetta, non farci vedere, non frequentare posti affollati, come lei diceva, il cinema, non è che sia facile che io possa andare a vedere un film al cinema, cose che le persone normali possono fare. Mentre gliela facevo, ho fatto proprio questa riflessione di una domanda ingenua, no? Come se lei possa prendere e andare al cinema tranquillamente, come ho fatto io ieri. Senta, Gaetano Saffioti, le voglio presentare, è una storia diversa, ma una storia che ci ha incuriosito, ci ha molto colpito, il sindaco di Forio, in provincia di Napoli, siamo sulla... Beh sì, certo, stavo dicendo, siamo nella splendida isola Ischia, però la provincia rimane quella, sindaco. Comunque... Ma noi comunque, diciamo, sull'isola di Ischia ci distinguiamo un po', perché siamo una realtà etnica completamente diversa. Ah, va bene, ci tiene subito ad alzare la bandiera ischitana. Allora, dopo le informazioni sul traffico, sono da lei, sindaco, perché ci ha incuriosito quello che abbiamo letto sui giornali, e cioè requisita una parte di un albergo del sindaco di Forio a Ischia, proprietà del sindaco. Lei è il sindaco di Forio. Siamo qui, allora, sindaco di Forio, isola di Ischia, abbiamo letto sul Mattino di alcuni locali e pertinenze dell'hotel di cui lei è proprietario che sono stati sequestrati perché abusivi. E come, che succede, sindaco del Deo? Io innanzitutto tengo a precisare che sono del tutto estraneo a questi fatti, in quanto questo albergo è stato costruito da mio padre sin dal 1961, io avevo 11 anni, oggi ne ho 64, io ho fatto il sindaco 20 anni fa, io ho rifatto il sindaco dopo 20 anni perché io vivo a Roma, le mie attività sono fuori dall'isola d'Ischia, sì, e l'albergo l'ho ereditato da mio padre, quindi nel 61 avevo esattamente... Come mai se ne sono accorti adesso? Che... Ecco, allora, tant'è vero che sono venuti, non c'erano opere in corso e addirittura dai rilievi satellitari del 2007 ad oggi si evince che non vi sono state modifiche. Lì, diciamo, molto probabilmente hanno preso documenti erroneamente, cioè sono state date delle notizie, vuoi per ragioni di catastro, vuoi per ragioni di atti che hanno trovato, non hanno trovato opere in corso. Dai rilievi del 2007, io il sindaco l'ho iniziato a fare nel 2013, e tengo a precisare che la mia coalizione ha preso l'84,70%, sono il sindaco più votato in Italia. Ecco, quindi probabilmente c'è una certa stima nei miei confronti. L'attività alberghiera, diciamo, l'albergo è gestito da una società che fa soltanto gestione, quindi provvedono alla manutenzione, ma addirittura dal 2007, cioè 6 anni prima che io mi candidassi sindaco, con i rilievi satellitari si evince che non vi sono state alcune... Vabbè, cioè, ci sta dicendo che hanno sbagliato. E probabilmente ci sono stati degli errori che poi hanno tratto in inganno o in errore il magistrato, e questo lo andremo dunque a dimostrare. Tant'è che io vi richiamerò poi per darvi la... Le novità. Senta, sindaco, però se lei sa, anche un discorso di occupazione demaniale, l'occupazione demaniale che non c'è, perché come tutte le cose in Italia è stata fatta una linea demaniale senza fare il testimoniale di Stato e addirittura di una stradina vicinale che in base alla legge 22 del 58... Sì. Le stradine vicinali sono di proprietà privata. Sì, vabbè, ma è chiaro, ma queste sono vicende che se la vedrà, diciamo, con la procura. Certo, lei sa, sindaco, che l'isola di Ischia viene spesso additata come un luogo dove dell'abusivismo si è fatto anche un po' una regola, e so che esiste anche un partito che è un partito anche abbastanza radicato, che vuole in qualche modo arrivare a delle sanatorie, a dei condoni. Lei è mai venuto? A Ischia, certo, sì, sono venuto. Allora io la vorrei invitare a fare un giro via mare, un volo in aereo, e lei vedrà che l'isola di Ischia è colpita molto meno degli altri posti in Italia. Innanzitutto sull'isola di Ischia non vi sono ecomossi. Sono tutti, a proposito, tengo a precisare che l'albergo in questione è uno degli alberghi più piccoli dell'isola di Ischia, una trentina di stanze, non è che stiamo parlando di qualche mega sostruttura. Però tengo anche a dire che sull'isola di Ischia ecomostri non ce ne sono, cioè, anzi, in termini di percentuale c'è un abusivismo inferiore a tantissime altre zone che vanno dal nord al sud. Dovremmo arrivare a zero proprio in uno stato. Arrivare a zero. Noi dobbiamo arrivare a zero e siamo dunque d'accordo. Io anzi posso dire già che da un anno che sto facendo il sindaco, può darsi pure che hanno fatto qualche denuncia proprio perché da un anno a questa parte abusivismo nel mio comune, devo dire anche sulle altre parti dell'isola, perché abbiamo trovato un'intesa fra i 6 sindaci che prima dunque non c'era, dove a un certo punto siamo accanto al cittadino a dire di non costruire abusivamente perché non sono più tempi di costruire dunque abusivamente. A Ischia lei troverà alberghi, tutte case basse, piano terra e primo piano, al massimo troverà un secondo piano, però io ci terrei dunque appunto a far vedere questa situazione. No, ma è chiaro, va bene. Però come andrà a finire? Poi questo lo vedremo con la procura. Hanno fatto un errore. Io vorrei per un attimo tornare da Gaetano Saffioti. Saffioti, io le chiedo, lei se le parlano dello Stato e se le chiedono che ne pensa dello Stato, lo Stato vuol dire tutto e niente, vuol dire siamo tutti noi, sono le autorità, sono i politici, sono la società civile, insomma, lei quando le parlano di Stato in Calabria, in Italia, che replica? Esiste, è forte, è presente? Ma sì, lo Stato fa quello che può, insomma, ci sarebbe tanto da fare, partendo da già dal sistema giudiziario, perché le pene devono essere certe, insomma, perché ci sia veramente, che sia veramente un deterrente. Ma diciamo c'è da parte, vedete, io cerco di svegliare più che altro la società civile, la cosiddetta società civile, perché si tende sempre ad accusare uno Stato inefficiente, con delle forze dell'ordine insufficienti, con dei politici che tutto fanno tranne quello per cui sono stati eletti. Però mi creda, è troppo comodo, è troppo facile sentirci vittime impotenti, addebitare. Ma noi, società civile, cosa facciamo o cosa non facciamo? Ma lei ci ha detto che adesso, forse, dopo qualche anno, la gente comincia a salutarla. Cioè, capisce che poi la società civile, che vuol dire, può essere anche una parola vuota, sono le persone che quando lei passa per... Ma è qualcosa che dipende da loro, ecco perché l'esempio del testimone che resta in terra di origine, non si sposta, non va... E vuole essere un esempio concreto, un esempio per cui dice, se l'ho fatto io lo potete fare pure voi, cioè dipende da noi di risollevare questa cosa, non è che come ho detto prima con la sola repressione. La mafia, l'andrangheta, tutte le cose esistono, c'è cioè la corruzione, tutto quello che noi vogliamo, la prostituzione, la droga, solo perché la gente la fa esistere. No, ma tra l'altro guardi, Saffiotti, per me è facile dirlo nel comodo di uno studio, non stando lì a Palmi, è facile dire bisogna salutarla, bisogna parlarle, ma lei in qualche modo, lei ha fatto questa scelta, ma capisce perché una persona a Palmi non la saluta? Cioè, riesce a entrare in qualche modo nella sua testa e dire capisco che forse non ha tutti i torti a fare così. No, non è questione di torti, io posso comprenderle ma non posso capirle, perché se da ogni dove si alza il grido che si vuole cambiare, bisogna che si imboccano le maniche. Come disse Falcone, che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Cioè, non è che arriverà la fatina con la bacchetta magica a risolversi delle sorti, noi abbiamo un eccezionale territorio con vocazione turistica, secoli di storia e cultura, ma siamo nemici di noi stessi, siamo bravissimi a non saperci valorizzare, è come se avessimo perso tutti la nostra identità, mi credo, dobbiamo recuperarla, dobbiamo reagire. Allora, io credo sulla questione di Ischia invece, c'è un'ascoltatrice che ci ha chiamato Sabrina da Roma, buongiorno Sabrina. Sì, buongiorno, senta, sì. Ecco, a proposito di Eco Mostri, volevo denunciare pubblicamente, poi magari le mando Milan un po' anche di informazioni perché mi sono un po' documentata, c'è una delibera comunale, eccetera. Stanno costruendo proprio davanti al castello aragonese un parcheggio multipiano in cemento armato bianco, una roba orrenda. Tra l'altro, voglio dire, l'isola di Ischia, tutti sappiamo che insomma. Ma che comune è? Perché sono vari comuni. Che comune è? Non è Forio, abbiamo il sindaco. Ci aiuta lei, sindaco, non è Forio. Che proprio davanti al castello aragonese. Che comune è, sindaco? Sindaco. Sì. No, non ho capito niente, sindaco, che comune è quello? Allora, è il comune di Ischia Porto. E quello che stanno realizzando è un parcheggio completamente interrato, dove sopra verrà, oggi è terreno, domani verrà ripristinato tutto verde e servirà proprio ad eliminare, diciamo, le auto dalle strade e migliorare così il traffico cittadino. Quindi Sabrina, ci sta dicendo Sabrina che è un parcheggio, anzi, che servirà. È completamente interrato, insomma. Vabbè, Sabrina, che no, dice? No, io le dico perché allora praticamente mi sono andata a vedere la precedente delibera comunale che autorizzava questo parcheggio, per cui poi dopo hanno trovato anche i finanziamenti della Comunità Europea, quindi probabilmente, mi dispiace dirlo, non sono una del Movimento 5 Stelle, ma su questo c'ha ragione Beppe Grillo, bisognerebbe andare a indagare, perché in Italia ci sono tantissime opere e monumenti architettonici che crollano e non vengono finanziati dalla Comunità Europea, chissà come mai questa cosa. Allora, questo parcheggio multipiano tra l'altro è funzionale, di pertinenza di un albergo lì di fronte. Sabrina, guardi, ai residenti verranno dati, le dico di no perché sto sforando, non per altro. Ci ha spiegato questa cosa, non so, mi mandi le documentazioni, le mandi anche alla procura se pensa che ci sia qualcosa che non va. Mi devo fermare. Francesco Del Deo, grazie, sindaco di Forio, per essere stato con noi, e Gaetano Saffiotti, imprenditore edile di Palmi, un grosso abbraccio ovviamente da tutti noi, e ci troviamo domani alle 6:30.